lasciati portar via dal tuo principe azzurro qualunque che ti sa toccare il punto G. E se ci pensi bene è tutto ciò che avevi nella tua casa di Barbie. Lasciati portar via da tutte le paure che ti vengono a cercare e sanno bene dove accarezzarti. Yeah.